Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Europa e ne parliamo con Roberto Santaniello. Buonasera Santaniello. Buonasera, buonasera Gianfranco. E con Pier Virginio D'Astoli. Buonasera dottor D'Astoli. Buonasera. Roberto Santaniello è stato direttore delle relazioni internazionali del Comune di Milano, è stato portavoce della rappresentanza d'Italia della Commissione europea e ora è dirigente della stessa Commissione europea a Bruxelles. Pier Virginio D'Astoli è presidente del Movimento europeo in Italia e consigliere del gruppo Spinelli nel Parlamento europeo e hanno scritto insieme un libro che ha un titolo molto esplicito. C'eravamo tanto amati. Italia, Europa e poi punto di domanda. Allora, Pier Virginio D'Astoli, perché e poi punto di domanda? Dal titolo noi vogliamo indicare che il rapporto di fiducia e di consenso fra i cittadini italiani, ma non soltanto quelli italiani e l'Europa, sia andato in qualche modo evaporando in questi anni. E poi è perché non bisogna fermarsi qui, ma bisogna chiedersi come recuperare questo consenso e questo rapporto di fiducia, non soltanto dell'interesse dell'Europa, ma anche dell'interesse dei cittadini che hanno bisogno dell'Europa. Ecco, quindi il libro compie un po' un percorso, ripercorre l'Europa, soprattutto negli ultimi anni, dal Trattato di Maastricht in poi, questa Europa che ha creato delle grandi cose come la moneta unica europea, una realtà che non ha precedenti nella storia mondiale, ma che forse poi non ha saputo gestire bene queste realtà. E questa è un po' la critica di fondo, Roberto Santaniello? In un certo senso sì, diciamo, questo è uno degli elementi del libro, non c'è dubbio. Certo che è necessario rinvigorire questo sentimento di appartenenza e alcune dichiarazioni di quest'estate, almeno da parte italiana, da parte diretta, da parte del Presidente della Repubblica, vanno in questo senso e bisognerebbe operare affinché in Italia questo sentimento di comune identità europea venga rafforzato fortemente. Ecco, però si aspettano anche delle risposte dall'Europa, non basta fare un passo, bisogna anche proseguire in questa direzione. Sul fronte dell'euro, per esempio, dopo la grande campagna anche diciamo di informazione che c'è stata all'inizio, poi tutto è stato lasciato un po' andare. Forse bisognerebbe anche riprendere proprio a livello di informazione queste problematiche, Santaniello. Guardi, c'è stato secondo me un errore da parte delle istituzioni comunitarie, è quello di aver affidato all'euro un valore identitario, cioè costruire attorno alla moneta unica l'identità europea. Credo che la moneta unica non scalda i cuori della gente, ci vuole ben altro affinché un cittadino polacco, danese o un cittadino europeo senta forte l'appartenenza a un progetto europeo. E questa è una prima considerazione, quindi è necessaria una comunicazione a tutto campo, gli esperti la chiamerebbero valoriale, cioè trovare quei valori che uniscono e che consentano ai cittadini di sentirsi in un unico progetto. Per quanto riguarda naturalmente la comunicazione specifica dell'euro, è sempre stata concepita, almeno in questi ultimi anni, come una comunicazione d'urgenza e quindi ha sofferto delle difficoltà e dell'incapacità dei governi e degli stati e delle stesse istituzioni di trovare una soluzione alla crisi dei debiti sovrani, mentre ci sarebbe ed è necessario una comunicazione più a ampio raggio che consenta ai cittadini di vedere a 360 gradi tutto ciò che appartiene al governo dell'economia dell'euro e all'euro nel suo insieme, e su questo si può lavorare ancora. Ecco, anche perché mi rivolgo ancora a Roberto Santaniello, appunto dirigente della Commissione europea a Bruxelles, l'euro doveva essere un po' il battistrada, un'unità monetaria a cui doveva seguire un'unità anche politica, un'unità anche nelle politiche di bilancio, nelle politiche fiscali, un'unità delle politiche economiche. Ecco, perché questi passi invece tardano così tanto? Forse l'euro non è stato ancora digerito dall'insieme dell'Europa. Dunque, innanzitutto, secondo me, l'unione politica non doveva seguire l'unione economica, cioè semmai era un processo parallelo, e quindi non bisogna considerarlo in questa scansione temporanea. Il discorso è che, naturalmente, il governo dell'euro ha necessità di strutture democratiche, Parlamento che abbia la piena capacità di comprendere ciò che sta accadendo e di qualche modo dire la sua in maniera forte su questi processi e poi naturalmente una struttura di governo dell'economia che abbia come perno la Commissione europea, che abbia la capacità di mettere in atto politiche economiche realmente comuni. Credo che il mio collega Virgilio D'Astoli, che vorrei sottolineare, è stato il mio capo alla rappresentanza in Italia, quindi Fabi si è dimenticato di dirlo, abbia abbastanza cose da dire anche su questo punto. Ecco, appunto, stavo appunto passando la parola a Pier Virgilio D'Astoli, non solo presidente del Movimento Europeo, ma anche altro esponente appunto della Commissione Europea. Proprio in questa prospettiva, l'Europa ha fatto certamente dei passi anche a livello di strutture, però forse più a livello di strutture più che di mantenere quegli ideali di fondo che si davano forse un po' per scontati. Già il titolo del libro, C'eravamo tanto amati, dire che gli ideali c'erano, ma poi si sono un po' appassiti. Pier Virgilio D'Astoli. Ma io vorrei dire due cose. Intanto, per quanto riguarda l'euro, quando si lanciò questa prospettiva si disse l'euro deve essere uno scudo. Ora, in materia di difesa, noi sappiamo benissimo che non basta dotarsi di uno scudo. Bisogna poi che l'esercito abbia una capacità strategica e di visione, e questo l'Europa non ce l'ha avuta, e che questo sia inserito poi nel quadro di capacità di difendere degli interessi che non sono soltanto economici ma sono anche politici, ed è questa la ragione per cui lo diceva Sant'Agnello, che unione politica e unione monetaria devono andare insieme, perché non basta appunto, come dicevo, dotarsi di uno scudo. E noi abbiamo visto in questi anni, lo vediamo in questi giorni con la vicenda dell'Egitto, che l'Europa balbetta su una questione drammatica come quella della situazione in Egitto, che è esplosiva per tutto insieme del Medio Oriente, e questo rende in qualche modo ancora più forte e necessario la prospettiva di rilanciare il progetto di una unità politica. Noi fra 275 giorni andremo a votare per il Parlamento europeo e poi dopo, un mese e mezzo dopo, l'Italia avrà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Sarà un momento cruciale per rilanciare il processo di integrazione europea. Sulla questione dell'Egitto, quello che manca all'Europa è una vera politica estera e della sicurezza. Non basta l'evanescente Ashton per risolvere il problema. Noi dobbiamo dotarci di una nostra capacità di intervento strategico nel Mediterraneo, che è essenziale per i nostri interessi in qualche modo. Allora, questo non può avvenire soltanto attraverso la consultazione e il dialogo fra governi nazionali. Ci vuole appunto un'Europa politica, ci vuole un'Europa federale, e questo richiede appunto la necessità di riprendere in mano. Noi nel libro diciamo che bisogna riaprire il cantiere europeo, e come in tutti i cantieri ci vuole un architetto o degli architetti che abbiano una capacità di visione, e questo è il messaggio che noi diamo anche attraverso il nostro libretto C'eravamo tanto amati. E poi, ecco, ma D'Astoli, parlandoci un po' francamente, l'Europa si è complicata un po' la vita anche da sola, forse facendo un proprio dovere, quello di allargarsi ai paesi che dopo il crollo del muro di Berlino si sono avvicinati appunto alla realtà europea, ed era un dovere dell'Europa anche accoglierli. Però un'Europa a 27 è molto più difficile da gestire, ci vuole proprio un architetto con grandi capacità politiche, con grandi capacità strategiche per mettere insieme politicamente questa realtà molto complessa. Sì, noi dobbiamo chiederci qual è la dimensione politica ottimale per rilanciare il processo dell'Europa federale. La dimensione politica ottimale è l'Europa a 28 e domani anche di più, perché noi abbiamo le porte aperte verso i Balcani e poi eventualmente un giorno o l'altro, chissà quando, anche la Turchia, per cui potremmo diventare un giorno unione di 34-35 paesi. O la dimensione politica ottimale, per esempio, è la dimensione dell'Eurozona, cioè dei paesi che hanno condiviso un progetto di integrazione economica forte. E questa è una scelta non soltanto di carattere giuridico e economico, ma è una scelta di carattere politico, cioè il rilancio dell'integrazione politica deve andare avanti in qualche modo coinvolgendo tutti e partendo dal principio che o ci stanno tutti o non si va avanti, o dobbiamo invece lanciare un processo attribuendo per esempio una capacità fiscale all'Eurozona, immaginando l'idea di un bilancio dell'Eurozona che in qualche modo combatta le asimmetrie che noi abbiamo visto fra i nostri paesi. E questa è una scelta politica. Io sono convinto che per esempio su questo il governo italiano dovrebbe aprire innanzitutto un dialogo forte con la Germania dopo le elezioni del 26 e del 22 di settembre, e poi proporre agli altri paesi dell'Eurozona un percorso, come si dice a Bruxelles, una roadmap che ci indichi la strada che deve essere percorsa per per appunto dare all'Eurozona quella capacità di politiche che oggi l'Eurozona non ha. Ecco, allora per concludere, ci avviamo alla conclusione, Roberto Santaniello, guardando da Bruxelles questa possibile strada da compiere, l'Europa a due velocità, le due Europe possono essere una prospettiva per il futuro? Guardi, su questo il dibattito è aperto, anche se vediamo che c'è una certa resistenza a affrontare questo tema in maniera così brutale. Quindi diciamo è più in questo momento una prospettiva politica legata ai think tank, a gruppi di pressione, però credo che sia una prospettiva ragionevole. Il discorso secondo cui questa prospettiva non c'è è che si dice abbiamo allargato a 28, che facciamo adesso? Creiamo di nuovo una divisione, certo meno brutale della precedente, ma comunque è un argomento che suscita molta preoccupazione, quindi se ne parla veramente sottovoce. Però ecco, sono temi di cui bisogna parlare, così come bisogna riprendere a parlare con forza anche di un'Europa che rimane una prospettiva, la prospettiva per il nostro futuro, perché senza l'Europa sarebbe certamente tutto più difficile. Io ringrazio Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo in Italia, Roberto Santaniello, dirigente della Commissione Europea a Bruxelles, per essere stato con noi questa sera. Vi ricordo il libro che hanno scritto, C'eravamo tanto amati, Italia, Europa e poi, edito da Egea, sono 144 pagine per 15 euro. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.